sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. E che diavolo? Avete visto il giornale? Hanno ammazzato Pinocchio. Lo vedo in tutte le pagine che raccontano le manifestazioni e gli scontri di ieri a Piazza Navona. Pinocchio disteso sul selciato, sui San Pietrini, riverso, senza vita, circondato dagli stivaloni e dalle guarniture antisommossa dei poliziotti. Chi ha ammazzato quel Pinocchio di Piazza Navona? Me lo ricordo da bambino, un grande Pinocchio che sta davanti a un grande negozio di peluche. Che tempi. Sono salito sull'autobus e ho visto i giovani, ognuno con quelle cuffiette, con quei piccoli congegni che mettono musica, ognuno era un universo a sé, indifferenti, tutti con la loro cuffietta, tutti ascoltavano la loro musica, non comunicavano tra di loro. Che tempi, mi sono seduto sull'autobus accanto a una ragazza filippina, parlava ad alta voce perché anche lei aveva la cuffietta, quindi non aveva rispetto perché gli stava seduto vicino, era seduta, c'erano tanti anziani in piedi. Poi ha aperto la borsetta, ha tirato fuori la sua colazione, una sorta di involtino, sentiva odore di cipolle e dava molto fastidio. Che tempi. Ho accelerato l'atteggiamento, probabilmente sento una persona vecchia. Quando ci si stupisce del proprio tempo significa, secondo me, che il proprio tempo è passato. Quindi il tempo è passato quando qualcuno ha una percezione distante dal tempo che sta vivendo e lo paragona con il tempo che ha vissuto e improvvisamente si accorge che i tempi non sono più quelli che lui ricordava e quindi è diventato vecchio. E quando diventiamo noi vecchi? E la domanda mi viene posta questa mattina da una nostra ascoltatrice che mi segue su Facebook e che ha radicalmente cambiato quello che era il tema di oggi. Lei si chiama Anna Paterniti, ancora penso che sia online, ci stia seguendo da Facebook. Il tema è proprio questo. La vecchiaia è quando il corpo umano è flaccido, sudaticcio, oppure quella della mente che ci fa dire ai nostri tempi le cose erano diverse? 800240024. Come stiamo percependo di invecchiare? Cos'è oggi la vecchiaia? Cosa significa essere vecchi? Ci atterrisce l'essere vecchi? Perché anche noi, pur non essendo vecchissimi, guardiamo il mondo e diciamo ah che tempi, perché anche noi improvvisamente entriamo in un atteggiamento vecchio nei confronti della realtà. Ai miei tempi, ho 60 anni, ai miei tempi a questa età, insomma si andava a scuola va bene, però dopo si imparava tutti i mestieri, si imparava a cucire, a ricamare. Io ho un nipotino piccolino e sono veramente preoccupata di come stanno andando le cose. Mi sa tanto di vecchio. Perché esattamente quello che provo io è diventato una cosa vergognosa. Quando andavo a scuola io, andavo a scuola, non venivo a casa. Io ho questi mestieri moderni che devono sculettare tutte e devono fare tutti lo stesso mestiere. Non va bene. Mi sa tanto di vecchio. Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti hanno trasformato alcuni brandelli di messaggi mandati anche in altre epoche, messaggi di disastroso atteggiamento denigratorio per la contemporaneità, che sono diventati un po' il manifesto della vecchiaia interiore, esteriore, vissuta, congenita, irreversibile. Siamo vecchi quando ci stupiamo per il nostro tempo e quindi significa che il nostro tempo è agli sgoccioli. Cosa significa oggi essere vecchi? Essere vecchi è un grande delitto, è una malattia. La persona che guardiamo con disprezzo diciamo come sta invecchiando male. A me quando vogliono insultarmi mi dicono guarda stai invecchiando, sei rincoglionito, sei un vecchio. Ma un po' è anche vero, mi guardo allo specchio in effetti qualche piccolo sintomo esteriore comincio a averci, ma io ho 54 anni, alla mia età mio padre era già un signore maturo. maturo, arrivato e posato. Mio nonno, figuriamoci, era quasi un pensionato. Mio bisnonno probabilmente già lo portavano in carriola, era considerato carne da cimitero, eppure ancora la pretesa di essere giovane, di avere un corpo, e di avere curiosità, di avere attenzioni. Ancora faccio il vanesio, faccio il galletto, cosa è accaduto per cui improvvisamente non ci si accorge più di essere vecchi? Ma la nostra è una società di persone estremamente vecchie. Ci sono ragazzi di 15 anni che fanno questi ragionamenti di estremo rigore etico e morale, giusto, sacrosanto, lecito, legittimo, ma senza quel lancio di leggerezza e di curiosità dovrebbe avere la giovinezza. Guardo le foto degli scontri, non prendo posizione, Dio me ne guardi. Mi sembra quasi un compiacere i sogni frustrati di eroismo giovanile dei loro genitori. Ho figli in età di scuola, vado alle riunioni dei genitori, vedo queste mamme, questi papà colti dal fremito giovanilista frustrato che vorrebbero mandare i figli a fare quello che loro hanno fatto, come magari i nostri genitori volevano che noi leggessimo certi libri. Mi sono sciroppato tutta la letteratura fanciullesca che andava di moda negli anni 20 e 30, semplicemente perché sono stato allevato da nonni, e probabilmente oggi i giovani provano il frisson della piazza senza nessun motivo palese, evidente, che ci sia questa reale tensione, perché fanno così contenti i loro papà e le loro mamme, ma allo stesso tempo certificano una profonda e radicale vecchiaia di spirito, mancanza di innovazione, di pensiero, di qualcosa che dia un senso di freschezza al tempo in cui si vive. Da alcuni indicatori molto certi nel nostro immaginario quotidiano, però possiamo vedere che la vecchiaia in realtà è una sorta di parolaccia, qualcosa di nascosto, qualcosa che non dovrebbe esistere, anche se il pensiero vecchio, devo dire, è il pensiero che impera. Io ricordo una volta feci un'osservazione provenendo da studi classici, soprattutto una particolare attenzione al teatro barocco che mi interessò molto in un certo periodo, mi rimase impressa una lettura che faceva Francisco de Quevedo della fatalità del vivere, del nascere, del morire. Lui parlava di pañales y mortaja. I pañales erano i pannolini del bambino appena nato, le mortaja erano il sudario del cadavere, del morto. Diceva: in fondo noi siamo la stessa cosa, vita e morte, giovinezza e vecchiaia, nascita e morte. È un pensiero filosofico molto profondo, sono un tratto unico dell'esistere, e quindi i pannolini dell'infante sono già il sudario del morto. Beh, io lo stesso pensiero l'ho fatto un giorno passando per un supermercato. Secondo Francisco de Quevedo, già le fasce della culla fatalmente evocano le bende del sudario. Il nascere e il morire sono racchiusi, nella visione del poeta barocco, in un susseguirsi di panneggi che proteggono, coprono e nascondono il corpo da quando viene alla luce sino al suo disfarsi nella tenebra. Non è del tutto impossibile trovare anche in un supermarket tracce dell'illusorietà dell'esistere, profonde quanto quelle indicate da Quevedo. In un banalissimo luogo dove è esposta merce di consumo, è possibile avere baluginì che portano a un profondo memento mori. La capacità di consumare merce è il grado di dignità di esistenza che oggi abbiamo. Se osserviamo la merce come un mondo di riferimenti simbolici, capiamo oggi quanto sia un delitto essere vecchi. In quei luoghi, accanto allo scaffale della carta igienica, sovente si trova il settore delle assorbenze. Si sorvoli l'angolo delle mensilità femminili, il degradare cromatico dei proteggi slip segna il confine con la zona bimbi. Tutte le marche di pannolini infantili hanno la linea, cromaticamente distinta, per maschietti e per femminucce. Le linee si suddividono a loro volta in sottocategorie che, a seconda del peso dell'infante, espresso in chili e libbre, hanno un contrassegno di colore variabile dal fucsia al verdino. Ma senza alcun baluardo di pudicizia, accanto ai variopinti panneggi, sostano mesti i prodotti per l'incontinenza senile della zona vecchi. Il mercato gioisce alla nascita di un nuovo consumatore e subito lo fa entrare nel variopinto, variegato, meraviglioso mondo delle scelte possibili. Per la pipì e per la pupù di un bambino esiste una gamma varia, policroma, multiforme e calibrata di presidi sanitari. Ma quando si è vecchi, quando non si serve più, quando è irreversibile ogni trattamento, ogni tentativo di contenimento, ogni rifacimento, ogni imbellettamento, cosa si diventa? Si diventa materiale di scarto. Il pannolone mutanda per adulti è in realtà tutt'altra cosa e infatti non ha confezioni accattivanti, ma è venduto per quello che è, un prodotto sanitario con tanto di croce sopra. È prodotto in sole 3 misere taglie, senza distinzioni di sesso per un'età in cui il sesso non esiste più, e possiede tutte le stigmate esteriori di un triste rimedio ad umilianti occorrenze. Mentre la cacca di un bambino viene portata festosamente in giro per la casa e mostrata con orgoglio ad amici e parenti, quella di un vecchio già puzza di morto e si nasconde immediatamente. Edoardo Boncinelli, buongiorno. Buongiorno. È d'accordo il genetista che oggi esista una sorta di pregiudizio nei confronti dell'invecchiare, anche se è un naturale esito del fatto che noi nasciamo? Ma non se ne parla, come quasi quasi ci se ne vergognasse, quasi quasi per negarlo, un po' come oggi si nega la morte, perché non è un aspetto trionfale, non è un aspetto luminoso della vita. La vecchiaia, mi sembra di aver detto, ma posso essere contraddetto ogni momento, oggi viene considerata quasi una colpa. Chi invecchia ha sbagliato qualcosa, e infatti il mercato per i vecchi ha dei prodotti molto tristi, molto terminali, di pietoso accompagno all'esito finale, mentre per tutte le fasi in cui uno riesce a mantenersi in linea con alcuni modelli di compattezza, esiste una gloriosa possibilità di scelta. Perché l'uomo non si rassegna del fatto che siamo delle macchine programmate per invecchiare, anche programmate, grazie a Dio, per morire? L'uomo non si è mai rassegnato e non si rassegnerà mai. In effetti Però l'ha sempre inserito in un ordine naturale delle cose, oggi sembra innaturale. No, non sembra innaturale, semplicemente ci se ne vergogna. E poi devo dire che, parlando seriamente, mentre c'è un modo solo per nascere e per crescere, c'è 100 modi diversi per invecchiare, e quindi ognuno, ogni vecchio, ogni anziano ha il suo modo, non c'è un modo universale, e anche per la stessa persona un anno c'è un acciacco, un anno non ce l'ha più. Quindi diciamo è una materia molto variegata, molto variabile, difficilmente cogibile in poche parole. Però bisogna rassegnarsi, perché il numero dei vecchi aumenterà vertiginosamente. La nostra, come tutte le altre, diventerà una società prevalentemente di vecchi. Cosa accade geneticamente per cui noi a un certo punto invecchiamo? Noi possiamo arrestare questo processo, trasformarlo in qualcosa di il più possibile piacevole, meno possibile spiacevole, ma quando è che nel nostro codice scatta quel tipo di informazione per cui dice adesso comincia a invecchiare? Soprattutto perché dobbiamo invecchiare? No, non scatta nulla, semplicemente che alla natura di quello che facciamo dopo l'età riproduttiva non gli importa assolutamente niente. Quindi ha tentato nei millenni, nei milioni di anni, di portarci al massimo della forma fisica e psichica all'età riproduttiva, diciamo 30-35 anni. Poi ci ha abbandonato. Per cui quelle cose che andavano bene prima e vanno bene dopo, bene. Quelle cose che andavano bene prima e sono indifferenti dopo, già lasciano un po' perplessi. Esistono un sacco di processi che vanno bene fino a 30 anni e sono deleteri da allora in poi, però questi processi vanno avanti lo stesso perché, ripeto, alla natura quello che facciamo a 60 anni, siamo poeti, siamo filosofi, siamo compositori, non gliene importa nulla, la natura dal punto di vista biologico guarda soltanto che noi siamo al massimo della forma quando ci riproduciamo. Allora tutti quei deliri fantascientifici, letterali, teatrali, che vogliono società perfette del futuro, che a un certo punto decidono che i vecchi o vengono mandati in un'isola o vengono eliminati dolcemente o scompaiono, risponderebbero le informazioni precise che ha l'ordine naturale delle cose. Dopo i 35 anni non si serve più comunque al che il mondo possa continuare a esistere? No, si serve moltissimo, però la natura vede una cosa sola, il numero di figli che lasciamo. A noi questo non piace, ovviamente, noi non seguiamo la natura in tutto e per tutto, quindi noi aiutiamo i vecchi, aiutiamo i deboli, aiutiamo gli anziani, e in questo entriamo palesemente in contraddizione con quello che è l'obiettivo della natura. Però rassegniamoci, sarà sempre più così, quindi qualunque cosa decideremo per il futuro sarà una cosa umana, fondamentalmente umana, ma non potremo più chiudere gli occhi sul fatto che il numero delle persone oltre i 60 anni diventerà fra poco la maggioranza della popolazione. Grazie professor Boncinelli. Rossella, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Adesso faccia la voce per far sentire che è giovane a tutti i costi. Va bene lo stesso. No, sono una vecchia bacucca. Ah beh, per fortuna. Senta, grazie alla sua trasmissione. Io mi accorgo di quanto sia ignorante, di quanto sia mediocre. Chi, lei? Sì, io. Mi dà una responsabilità che non voglio avere. Guardi, avanti. No, se la prenda. No, assolutamente. È che io poi rifletto sulle cose che dico e mi accorgo di quanto mi manchi. Oggi tocchi ferro proprio, perché la riflessione che si fa oggi, se lei è vero che è vecchia, è una riflessione io ho 57 terminale. Anni. Vabbè, più o meno è mia coetanea, via. Ecco. Volevo dire che la mancanza di progetto, secondo me, ci rende vecchi anche a 15 anni, a 20 anni. Io non ho mai progettato, cioè non so, io onestamente, purtroppo per sua sfortuna ho trovato una persona che odia il termine progetto. Quando andavo a scuola i preti mi dicevano il progetto di Dio. Io trovo che se Dio è Dio non deve fare progetti, e nemmeno l'uomo in fondo deve troppo essere schiavo dei propri progetti, perché la vita ogni giorno ci pone delle improvvise e meravigliose derive che escono fuori. Una meta verso la quale andare con passione, ecco questo mi piace di più. Ecco, questa cosa qui, qualcosa. Beh, mi dica la sua, signora Rossella. Io ne ho avute diverse, in questo momento diventa una cosa privata e... Vabbè, può anche dircela. Ecco. Il beneficio dell'età è che uno può parlare anche delle cose private con leggerezza. Quindi ancora lei la meta ce l'ha, 57 anni. Sì. Si sente dalla voce. Sì, no, dunque, l'ultimo progetto che ho avuto... ed è stata una cosa molto molto importante, che mio marito ha avuto un gravissimo incidente e io sono riuscita a renderlo autonomo con tutta una serie di lavoro da molti anni. E quindi lei sta tranquilla, suo marito autonomo e può dedicarsi ai suoi progetti. Ecco, quindi va bene, era grazie. La cosa che mi premeva di più. Mi fa felice per lei e anche per suo marito. Manfredo, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ma io credo che si inizia a diventare vecchi quando ci si dimentica di essere stati bambini. Pronto? Sì, la sto sentendo. No, è così. Perché io vedo questo, io oramai ho quasi 50 anni anch'io, ma insomma, e c'ho tanti miei amici che in gioventù facevano i punk, bevevano, s'ubriacavano, ne facevano di cotte e di crude, che diventati grandi, tra virgolette, hanno messo sulle aziendine e adesso inveiscono contro quelli che hanno 16, 18, 20 anni e la sera fanno un po' di casino sottostrada. Cioè ci si dimentica troppo di essere stati bambini e non abbiamo più la capacità di rapportarci con loro. Io non ho figli. Guardi che mica è importante avere rapporti intergenerazionali, cioè è importante quando si è genitori tenere il più possibile un contatto attivo con i figli, perché uno cerca di trasferirgli più che può quello che lui ha visto del mondo, ma esiste un momento meraviglioso, fatale e auspicabile in cui ognuno va per la sua strada. Io non è che ami tantissimo, sono curioso, mi piace guardare, mi piace contaminarmi, ma avere questa necessità totale di essere sempre all'altezza delle generazioni che vengono dopo di noi è un po' ridicolo. La mia età è segnata dall'orrendo signore cinquantenne in jeans e scarpe da ginnastica, oggi se ne vedono di cose altrettanto ridicole, di vecchi che semplicemente assumendo gli aspetti esteriori che per codice appartengono alla giovinezza, in realtà sono, come il professor Unrat dell'Angelo Azzurro, sembrano dire chicchirichì sul palcoscenico della loro ridicolaggine. Melog 2.0. Io ho la visione della vecchia che quando sei in fila alla posta e lei è dietro di te perché arriva dopo, pretende di stare avanti perché quel ragazzaccio maleducato secondo lei le è passato avanti e andando e via così. La vecchia è da sopprimere assolutamente, non è da, assolutamente da comparire. Sì, esiste anche questo lato sgradevole. Gli anziani sono fastidiosi, a volte sono noiosi, sono petulanti, ti danno sempre una nota di tristezza quando tu vorresti non esserlo, sono quelli che ti sembrano opporre il fatto che tu ancora non sei dalla loro parte e quindi ti guardano con disprezzo e forse anche con invidia, ma siccome è una condizione nella quale prima o poi, e tutti ce l'auguriamo, passeremo tutti, va visto questo anche con un grande senso di comprensione. 800 24, stamattina stiamo cercando di dare una lettura contemporanea. 800 24 00 24, scusate, ho letto mezzo numero soltanto, sto cercando questa mattina faticosamente dare una lettura compatibile con i nostri tempi della vecchiaia subdola in quanto sfuggente, vecchiaia sempre più orribile in quanto sintomo di isolamento, sintomo di essere rifiuti dalla società, ma allo stesso tempo camuffata attraverso le forme sintetiche di mantenimento, di occultamento del vecchio. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Lei è un medico di pronto soccorso? Sì, senta, fra l'altro anche la sua età, quindi siamo coetanei. No, io volevo fare una considerazione sul fatto della vecchiaia che oggi è rifiutata. Ma noi siamo vecchi o giovani o mezza età? Ma noi siamo di questa età, io mi sento della mia età, non ho né rimpianti né orizzonti da raggiungere. Io non mi sono mai sentito bene come a questa età, è un brutto segno, dottore? No, io mi sento bene alla mia età, no? Soltanto volevo... Ecco, noi facciamo già discorsi da vecchi, quindi andiamo al tema. No, ma perché? Ma secondo me non ci sono questi stereotipi di discorsi da vecchi e da giovani. Mamma mia, discorsi da cervelli, ha capito? Nel senso che uno, il cervello, lavora a seconda della cultura che ha e a seconda di quello che ha prodotto durante il tipo di vita che ha vissuto. Possono essere 10... Sì, caro dottore, ma il cervello dentro una cappa di vetro con gli elettrodi, solo nei film di fantascienza, il cervello è attaccato ad alcune cosine che ancora ci danno qualche soddisfazione, quando non ce la danno più ci sentiamo veramente vecchi. Ho capito, ma questo sta a ognuno di noi cercare, al di là di quella che può essere una patologia, ma sta a ognuno di noi cercare di trovare gli stimoli e di trovare, diciamo... Ecco, quando diventa patologica la vecchiaia, dottore? Ma io, senta, queste categorie e queste soluzioni della vita non ce l'ho. Io vivo una vita tutti i giorni con le persone che mi chiedono sempre o di allontanare il momento della morte, perché... Ma mi sembra giusto. Il professor Boncinelli oggi non viene più accettata la morte, nemmeno quando ci sono delle prove, diciamo, inconfutabili. C'è questo rifiuto categorico, come se noi medici avessimo il potere, quasi un potere soprannaturale. Oddio, tolti i kamikaze, i samurai e i santi, devo dire, non è che mai ha dato un gran gusto morire. No, non dico quello, però chiedere di, diciamo, di fare quello che non ci è possibile fare, secondo, come si dice, scienza e coscienza, penso sia, diciamo, un non voler accettare che esiste una fine di tutte le cose. Il mondo è fatto così. Ma perché lei ha detto ogni giorno le chiedono un surplus per far continuare a vivere la gente? Sì, perché dicono sempre, ma non si può fare qualcosa di più, ma non si può fare una flebo, ma non si può fare... Magari pagando... Sì, dicono anche pagando qualcosa. Io lavoro nel pubblico, non è che... E poi faccio il mio dovere, non è che se uno mi paga faccio una cosa e se non mi paga non ne faccio un'altra. Quando non si può più arrivare, la medicina purtroppo è stato fatto credere che è onnipotente, invece non è onnipotente, la medicina è fatta dagli uomini e quindi è umana, è caduca come tutte le cose umane. E poi l'altra considerazione per il fatto dell'importanza dei vecchi, purtroppo questa società è fatta così, a me piacerebbe che si ritornasse al tempo, diciamo, dei greci, in cui il Geron aveva la sua età, aveva la sua considerazione, aveva la sua importanza, e l'età era quella che faceva esperienza, che dava, diciamo, un prestigio davanti al popolo, pur con tutte le sue, diciamo, manchevolezze fisiche che sono dovute a una macchina che ormai si sta deteriorando. Ma qualcosa è cambiato però nei tempi, per cui esiste comunque questa gerontocrazia reale, ma esiste un fenomeno che secondo me è ancora più sottile, ancora più degno di essere osservato, di questa senescenza anticipata e precoce nelle persone che invece potrebbero vivere la loro giovinezza al pieno delle sue potenzialità. Già si sentono vecchi, forse probabilmente perché capiscono che il mondo appartiene ai vecchi, anche se i vecchi nella loro reale, concreta e terrificante accezione di decadimento fisico sono quando c'è più nascosto nella nostra società. Grazie Daniele. Pino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, niente, la mia considerazione, penso, ci diventa vecchi quando non si riesce più a soddisfare la partner. Beh, c'è chi ha questo problema anche a 20 anni, Va bene, ma 55, 56, 57 anni, capisci che veramente entra qualcosa di... Vabbè, parli per lei, cioè, adesso non è che... Sicuramente, parlo per me e dico che questo è un segnale di vecchiaia. Sì, però oggi guardi che... Adesso non voglio, la farmacopea fa miracoli, se fosse solo quello il problema è facilmente risolvibile, è che probabilmente in senso più lato non si ha più fantasia, non si ha più voglia di divertimento, non si ha più desiderio di scoperta insieme, mettiamo tutte queste cose insieme, se lei parla di soddisfazione puramente fisica, guardi, esistono rimedi favolosi, almeno di questo si parla. Però bisogna considerare che entra in ballo la vecchiaia, perché se fino ad ora hai funzionato, sei stato un bravo ragazzo, ti sei comportato bene... Ma questo è il problema, nessuna donna vorrebbe mai un bravo ragazzo vicino, se si è posto il problema in questi termini ha sbagliato dall'inizio, scusi, questo poi è il mio punto di vista, è suscettibile... Di ogni... in due mentalità diverse, Nicoletti. Ma per fortuna ci confrontiamo, questo è bello. Ecco, questo è il bello della storia. Comunque per me... Cioè lei non si sente più un bravo ragazzo, quel bravo ragazzo che era una volta... Il bravo ragazzo sessualmente intendo dire. Diciamolo, mica è una cosa come un'altra. Perché magari puoi essere bello, puoi essere attraente, brizzolato, che ne so, le ragazzine ti guardano, ma quando arrivi al dunque che dici ma devo fare qualcos'altro e pensi a qualcos'altro, non, quindi entra la vecchiaia, qui comincia a entrare la vecchiaia. Poi che ci sia il Viagra, che ci sia altre cose... Ma guardi, quello che fa parte, che ti rende giovane. Lei ha posto un problema che esiste fra i tanti problemi, ma non credo che sia quello il problema più importante nel campo relazionale, ma nel campo anche dell'amore fisico, dia il segnale della vecchiaia. Perché guardi, ci sono vecchietti impuniti e imperturbabili, ci sono vecchiette, mie coetanee, felici e meravigliose mie coetanee, che sono assolutamente delle bombe di sensualità, anche se non hanno più le carni che avevano quando avevano 20 anni. Io penso sia molto un problema di atteggiamento interiore, di caduta dei pudori, di caduta delle riservatezze, di caduta degli scrupoli che si faceva da più giovani. Anzi, secondo me è un'età favolosa quella che lei sta delineando, dai 50 ai 60 anni. È l'età in cui uno in fondo si può permettere qualunque cosa. La saluto, buongiorno a Stefano Benzoni. Stefano Benzoni è un neuropsichiatra infantile, uno psicoterapeuta, ma ha scritto un libro molto interessante, I giovani non esistono, per gli SBN, che sta certificando quello che noi stiamo dicendo. In fondo, apparentemente, sembra che il nostro sia un mondo in cui i giovani hanno presenza, hanno visibilità, ma in realtà è un mondo di vecchi camuffati da giovani. È d'accordo? Cioè, questa è la sua teoria, l'ho riassunta bene, Benzoni? Buongiorno a tutti. Direi di sì, il libro si occupa di rappresentare, di raccontare un po' alcune dei modi con cui si rappresenta e si raccontano i vecchi nel mondo di oggi, quindi in realtà, come dire, non è un libro scientifico, non è un libro sociologico, è un libro in cui si raccontano pezzi di fatti, di esperienze che danno un'immagine, a volte tragica, a volte comica, del modo di essere dei vecchi di oggi, che tradisce in fondo... Dico due parole che riassumono tutto, poi dalla quarta di copertina. VIP settantenni, trasfigurata da bisturi, capelli sintetici, spinti nella mischia della carne e abbondanti razioni di Viagra. Affollano spiagge esotiche sciogliendosi al sole. Sono quelli che sembrano i padroni oggi del nostro paese. Piuttosto... dell'immaginario, almeno tutti vorrebbero essere come, non so, Briatore, tutti vorrebbero essere Pippo Baudo perché ha successo in televisione, ma in realtà Mike Buongiorno ancora, sì, parafrasando un celebre saggio passato, diciamo al vecchio di oggi si chiede, allo spettatore di oggi anziano si chiede sempre quello che non può diventare, insomma. Ma quindi allora lei è d'accordo che non potrà mai diventare, con quello che dicevo, che in realtà i giovani non hanno tempo di essere giovani perché hanno questi modelli di vecchi immarcescibili e devono diventare come loro per avere l'illusione di poter esistere? Ma direi di sì, nel senso che poi è curioso che diciamo i comportamenti che oggi vengono additati come più censurabili dei giovani, tipo certi atteggiamenti da bully o certe cose di questo tipo, siano in realtà abbiano in realtà dei modelli pubblici piuttosto evidenti. Cioè, io mi preoccupo molto quando ci sono degli anziani signori di 70 anni che vanno in discoteca alle 3 del mattino e uscendo si bullano del fatto che ancora hanno tempo per occuparsi delle ragazzine. Beh, io li invidio, onestamente, lei li vede con occhio, io vorrei essere come loro alla loro età, non ho questo senso di collocazione nel regno della mestizia quando uno ha 60 anni, 70 anni. Melog 2.0 800240024, oggi parliamo di percezione contemporanea alla vecchiaia. Ne stavo parlando con Stefano Benzoni, autore di Giovani non esisto, no? Viaggio allucinante nel mondo dei vecchi, ISBN editore. Benzoni, mi piacerebbe capire oggi, visto che lei è psicoterapeuta e ha probabilmente contatti diretti con il mondo giovanile, come è percepita la paura dell'invecchiamento nella gioventù che lei conosce, che lei testa e vede ogni giorno? No. Hanno questa percezione che in realtà il mondo dei vecchi camuffati impedisce loro di vivere la giovinezza? Ma non lo so, forse non in questi termini, nel senso che forse la diciamo i giovani hanno, i ragazzi hanno questa forse grossa difficoltà nel in qualche modo immaginarsi di poter invecchiare, questo sì. Il fatto stesso che non esistano delle rappresentazioni collettive condivise della vecchiaia in modo esplicito, che non si possa rappresentare né la morte né l'invecchiamento in modo esplicito, naturalmente spinge tutti a incominciare a dissimulare l'età fin dalla tenerissima età, e questa è una, diciamo, delle cose forse più interessanti, anche inquietanti, che ormai si vede. Insomma, non sono tanto più gli adolescenti che vanno in crisi su questo, incominciano ad andare in crisi i bambini delle elementari, che incominciano ad agghindarsi e poi a dissimulare, a cercare il confronto, ed è davvero una perdita di confini, insomma, è una perdita di quella gerarchia naturale che c'è all'interno della famiglia, che è legata ai principi tutto. Ma questi confini si perdono, perché in realtà noi continuiamo a crogiolarsi in una sorta di immaturità interiore, ma in una tendenza a essere già adulti, già grandi, già anziani, quindi aspiriamo come progetto, mi diceva prima l'ascoltatrice, della nostra vita, diventare subito come una mummia, perché così anche noi entriamo nel mondo meraviglioso delle mummie. Sì, non so se è proprio così. A me pare che quello che succede in questo periodo indica in modo abbastanza preciso il fatto che i vecchi abbiano e attraversino una crisi di identità profonda. Questa crisi di identità, per esempio, si manifesta anche col fatto che il vecchio ha ormai perso la sua capacità di il possesso di una lingua narrante che sia centro di gravità narrativo per tutti quanti. I vecchi non sono più in grado di raccontare le loro esperienze per gli altri. Questo è un gravissimo, ha delle gravissime conseguenze, no? sul mondo dei più giovani, nel senso che è un fatto che riguarda l'organizzazione collettiva delle esperienze, no? I vecchi non sono più l'io narrante della storia. Cioè, il grande divario è stato anche l'avvento dei sistemi digitali di comunicazione, che hanno creato qualcosa che non è mai accaduto nella storia dell'umanità, che i giovani e le generazioni più fresche avessero degli strumenti più raffinati per comprendere gli strumenti di comunicazione che i loro predecessori. I ragazzini di 10 anni ne sanno più dei genitori nell'uso delle macchine per comunicare, e questo naturalmente ha creato uno scompenso. Ma a proposito di macchine, e rapporto tra mondo degli anziani e mondo delle macchine, abbiamo noi già trattato in passato un fenomeno particolarissimo. Vecchio rimbambito in realtà vuol dire vecchio rimbambinito, il vecchio che torna fanciullo proprio nel momento della demenza senile. Quindi alcuni scienziati hanno presentato recentemente all'International Robot Exhibition di Tokyo Paro. Paro cos'è? Paro è una piccola fochina meccanica, meravigliosa, carina, sembra un giocattolo, ma non è un giocattolo per bambini, è un giocattolo per anziani. Questo robot è lungo più o meno 57 centimetri e pesa 2 kg e 700 grammi. Il peso è stato calcolato per permettere un'associazione con la sensazione che si prova tenendo in braccio un neonato umano. Paro ha molti sensori, ad esempio uditivi. Usa tali sensori per la localizzazione del suono e per il riconoscimento vocale. Inoltre è dotato di pad sensoriali. Tutto il suo corpo è rivestito di sensori tattili. Se lo accarezzi, Paro è felice. Se lo picchi, Paro soffre. Un giocattolo per dare qualcosa da tenere in braccio che assomiglia a un essere umano all'anziano rimbambinito, perché l'anziano messo ai margini, quando l'anziano non è più un anziano vincente, non è più un anziano che tiene in mano fortemente le radici del possesso della civiltà di cui si fa portatore, l'anziano diventa merce da scarto. Nessun essere umano si occupa più degli anziani, quindi se ne occupa una macchina. Passiamo alla robotterapia. Abbiamo studiato l'attività cerebrale dei soggetti dementi misurando i segnali del loro elettroencefalogramma. Questo è un momento dell'analisi clinica. Qui stiamo misurando i segnali dell'elettroencefalogramma prima dell'interazione con Paro. Quindi viene introdotto Paro. In 7 soggetti su 14 è stato riscontrato un miglioramento dell'attività cerebrale dopo l'interazione con Paro. Nei soggetti che hanno trovato gradevole l'interazione con questo robot abbiamo riscontrato un considerevole miglioramento dell'attività cerebrale. Francesco, lei ha lavorato anni a contatto con gli anziani, leggo nella sua scheda. Cosa ne dice del robot badante dell'anziano? Francesco? Non la sento. Oh, io sì. Ecco, perfetto, adesso la sentiamo bene. Ha sentito questo robot giapponese che viene già distribuito in maniera sperimentale anche nel nostro paese, in alcuni centri anziani, che fa giocare il vecchio con una macchina che ricostruisce sommariamente l'organicità di un animale da compagnia. Hanno scelto la foca proprio perché non somiglia a un gatto, un animale che un vecchio non ha mai preso in braccio. Però pesa quanto un bambino, così si ricorda magari l'aspetto della maternità o della paternità. Ecco, lei ha questa percezione della merce di scarto, della fase ultima del processo di eliminazione di una scoria umana in un ospizio, in un centro anziani? Ahimè, Francesco non ha il dono della parola, quindi passo a Daniela. Daniela? Sì? Ecco, lei la sento. Lei ha 31 anni, quindi è giovanissima. Quando arriva la vecchiaia, secondo lei? E la vecchiaia, come la percepisce un anziano, arriva quando il suo fisico non gli permette più di fare quello che vuole. Ma lei che ne sa che ha 30 anni, come la percepisce un anziano? Io i nonni, ne ho avuti 4 più una bisnonna. Quindi osservando i suoi nonni, a quale conclusione è arrivata? Allora, la prima è che non c'è crisi di identità nei vecchi, per quanto vedo i miei nonni. Semplicemente loro iniziano a definirsi anziani, prima di quello non importa l'età anagrafica, non si definiscono anziani, se non quando il fisico non gli permette più di fare le cose che loro ritengono di fare. Quindi rimane quell'idea che spesso cito, ci si guarda allo specchio e si dice come mai mi sento dentro ancora l'animo di un ragazzo pieno di forze, pieno di curiosità, pieno di esperienze, però, ma questa macchinaccia che c'ho fuori non mi tiene più il passo. Esattamente. Lei che ha 30 anni naturalmente non ha questo tipo di problema. E sinceramente, allora diciamo così, siccome sono incinta e non sto bene, diciamo che ho iniziato a percepire cos'è il limite fisico. Sì, però vedrai che tutto passerà e tutto diventerà, anzi, una voglia, una scoperta di energie, di risorse che lei nemmeno immaginava, ma quindi le consiglio di non ascoltare quest'ultimo minuto di trasmissione, che è una testimonianza reale e concreta di un anziano nella fase ultima del processo di eliminazione a contatto con la foca, che dovrebbe rappresentare per lei qualcosa di umano, di umanoide, e si accorge che la macchina in realtà ha delle reazioni e perde la sensazione e non la vede più come una macchina, la vede come qualcosa di quasi umano, e in fondo ne è contento. Apri gli occhi che ti saluto, voglio salutarti. Ha risposto? Certo. Sì, voglio salutarti. Ciao. Lo capisci l'italiano? Ciao. Ciao, ti saluto. Sì. Ha risposto? Sì. Mi viene il mal di stomaco. Senti, mi fai star male, sai? Hai capito? Si guarda attorno. Si guarda attorno. Non ce la prendiamo, siamo sereni, rallegriamoci. Il giorno che vedremo arrivare a casa nostra un pacchetto con la foca meccanica Paro, sapremo che forse per noi è arrivato un momento piuttosto importante. A domani. email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.